24 mattino. Tu lo chiami solo un vecchio sporco imbroglio, ma è uno sbaglio, è petrolio. Troppo furbo. Petrolio, perché qui in redazione, oltre ad alcuni autori un po' fichetti e radica chic, c'era anche il grande Alessandro Chiappini, nazional popolare, regista di questo programma, che sentendo il nostro dibattito sulla benzina è corso subito con l'orecchio a Battisti. E in furia un dibattito su tante cose, la dimensione del mio serbatoio e la natura di questo distributore di Rovigo. Per esempio, carissimo Telese, oltre a sollecitarci andare a fare il pieno a Rovigo, sì, ma mica dicevo sul serio, può dire esattamente chi è, cioè come potrà questo distributore vendere a questi prezzi, chissà da chi si rifornisce, lo sa che il 25% del venduto di benzina e del gasolio in Italia sono illegali? No, io non lo sapevo, ma è un ascoltatore che ci ha raccontato che questa è la quotazione del distributore di Rovigo. Però la cosa interessante è che arrivano altre segnalazioni a Brescia, zona San Polo, dite allora anche la marca, se no il nostro ascoltatore interattore si arrabbia. Gasolio a 1,305 e udite udite, non sto scherzando, in provincia di Chieti gasolio 1,275. Tutti a Chieti, ma dici qual è il distributore? Signori, è qui davanti a me, è bellissimo, si è soffiato il naso per poter essere con voi al meglio, Oscar Giannino. Fratello, eccoci. Cosa hai visto oggi? Dai la tua notizia di apertura. È incredibile a dirsi, e tutta la notte ci ho pensato, tu non ci crederai, ma il fatto tutta che... la notte? Sì, perché questa vicenda mi colpisce, sto parlando della vicenda dei due coniugi ai quali hanno levato il bambino e poi adesso la giustizia dopo anni glielo ridà, Luigi De Ambrois e Gabriella Carsano. Allora, se tu ci pensi, no? Una follia. Ma no, ma... Non glielo dovevano levare, Salomone, o non glielo dovevano ridare. Re Salomone, no? Ci mette 5 minuti, secondo il primo libro dei re, di fronte a due donne in lite per un bambino. Ognuno dei due diceva, Salomone, grande re, figlio è mio. Lui ci mette 2 minuti a decidere a chi darlo. 2 minuti. La giustizia italiana nel 2017 ci mette anni e anni, leva una figlia dicendo, no, voi siete troppo vecchi. E dopo 7 anni ricambia idea e gliela ridà quando il danno alla bambina è fatto, perché loro non la vedono da 4 anni. E ma quando che loro teoricamente sono molto più vecchi, se ma il criterio che fosse quello. Ma può essere questa? Ma un paese di pazzi. Io devo dire la verità, un paese di pazzi. Oscar, l'altra questione su cui tutti i giornali aprono è questa della guerra su Etruria. Ma tu pensi, cioè la mia domanda, no? Visto che obiettivamente il fatto innegabile, a prescindere da tutte le interpretazioni, è che il PD sta puntando in commissione per cercare di mettere l'obiettivo su Banca Italia. Ma quanti elettori può interessare muovere? Secondo me zero. Ma credo cioè il conflitto Banca Italia, ma lì però la faccenda è ovviamente levare dal futuro di Maria Elena Boschi qualunque ombra, dal futuro, non dal passato. E quindi certo, questo è il problema fondamentale. Dopodiché, nella vicenda, il procuratore di Arezzo Rossi non svela nessuna particolare novità nel dire che la Banca d'Italia, che si ostina a negarlo, pensò di far levare Etruria la Popolare di Vicenza. Lo abbiamo scritto tutti ed è un fatto, perché veniva di là l'imbeccata per scriverlo anni fa, e Banca d'Italia adesso nega. Dall'altra parte è anche vero che il procuratore Rossi ha fatto il consulente del governo, quindi anche lì una vicenda italiana con tutte le caratteristiche dove ti volti, ti giri, non sai a chi credere, perché da una parte c'è un conflitto di interesse evidente nel procuratore di Arezzo Rossi, ripeto che si è fatto forza nel suo rapporto con la politica, ha fatto il consigliere della politica mentre esercitava la sua funzione giudiziaria, dall'altra parte Banca d'Italia che adesso nega ciò che ci ha fatto scrivere per anni, quindi mio Dio. Allora, c'è anche un grande dibattito sulle benzine, qualcuno dice che quelle costano meno, hanno meno ottani, signori, non lo so, ci documenteremo, chiameremo degli esperti, è un dibattito sul serbatoio della mia macchina, che è una Lancia Fedra del 2009 a 80 litri, 80 quando riempio, è veramente un conto che fa svenire, 2002 170 cavalli, no, volevo dirvi che oggi c'è un grande dibattito da 2 giorni sul Bitcoin. Io ho cercato di capire bene cosa sia il Bitcoin, ammetto, alzo le mani, non sono sicuro di averlo capito bene. Posso dirvi che so che è stato inventato da un certo Satoshi Nakamoto e che valeva 10 volte di meno. Ma allora, siccome è questione interessante, come farsi un conto in Bitcoin e che rischi si corrono, la moneta virtuale senza Stato, dice oggi La Verità, e ieri Il Sole ci raccontava il balzo e poi il crollo, addirittura la Fed pensa alla sua moneta, abbiamo chiamato un esperto, Ferdinando Ametrano, buongiorno. Esperto di Bitcoin, docente alla Bicocca e al Politecnico di Milano. Buongiorno. Buongiorno a tutti, buongiorno. Allora, Ferdinando, avrà sentito le mie improvvide, come sì, dire... Sì, improvvide, perché hai detto che valeva 10 volte di meno, ma come 10 volte? Valeva molto, molto, molto più di 10 volte di meno, ma detto sì, questo... dipende da quando si comincia, cioè, la votazione, però, no? Possiamo chiedere... Nell'aprile 2011 Bitcoin valeva $1, oggi ne vale 10.000. Quindi, è anni... Però possiamo chiedere a Ferdinando Metrano, tentiamo di spiegare proprio la definizione. Secondo lei, visto che anche gli esperti danno definizioni diverse, il Bitcoin, per farlo capire a chi a casa e magari sta pensando il piccolo risparmiatore, adesso me li compro, visto? Che cosa è? È una misura di valore? È una moneta? Alcuni dicono è uno schema Ponzi che arricchisce solo chi l'ha preso per prima e poi scoppierà. Che cos'è secondo lei la definizione tecnica? Oui. Dal punto di vista tecnico è sicuramente l'equivalente digitale dell'oro. Intendo dire, per la prima volta in ambito digitale abbiamo un bene che è scarso come quantità, che è trasmissibile ma non è duplicabile, è possibile spenderlo una volta ma non spenderlo due volte, e se ci pensiamo è necessario un momento di commozione intellettuale, perché in ambito digitale non conosciamo nulla che non possa essere duplicato. Ecco, se Bitcoin... ecco, e questa è la cosa difficile da capire, no? Siccome ci sono 16 milioni in circolazione e si dice che si possa arrivare a quota 21 milioni, ma che cosa impedisce che se ce ne facciano 100 milioni? Cioè, cosa regola il borsino, il valore e la scarsità di questa valuta? Da un certo punto di vista rispondo paradossalmente nulla, nel senso che se io e lei vogliamo cambiare la quantità di Bitcoin possiamo farlo, semplicemente il resto della rete non ci verrà dietro. Penserà che il nostro è un 24 mattino coin che non interessa a nessuno. È semplicemente una questione di teoria dei giochi, e gli incentivi economici sono allineati per fare in maniera che il protocollo non sia manipolabile sostanzialmente da nessuno. Però è rischiosissimo questo meccanismo, cioè non è un investimento che lei consiglierebbe a una famiglia. Ma guardi, è rischiosissimo perché ovviamente qualcosa che si apprezza di 10.000 volte in 6 anni, non c'è un rendimento così alto che non porti rischi altrettanto alti. Inoltre, come sempre, bisogna sconsigliare l'investimento in qualsiasi cosa non si capisca. Al tempo stesso investire in Bitcoin, se si capisce che Bitcoin potrebbe essere oro digitale e potrebbe essere quindi una rivoluzione straordinaria in una civilizzazione digitale come la nostra, investire in Bitcoin un piccolo capitale, ciò che si può permettere di perdere, potrebbe essere una scelta razionale. Ametrano, senta, Da Milano, io un paio d'anni fa avevo 3.3 bitcoin, li ho rivenduti a 250 euro l'uno. Vedi, vai, scusa Oscar. Ametrano, le faccio l'obiezione del contrario di quello che sono io, ma io non faccio test, io sono un anarco-liberista, quindi a me bitcoin piace proprio per la caratteristica che molti invece, oggi c'è la gara sui giornali, commentatori, economisti, imprenditori, tutti che chiedono che venga regolato dallo Stato e dicono è in realtà la grande galleria oscura in cui tutto ciò che non vuole essere censito e tracciato passa. E il ridicolo è che questa è l'accusa a un sistema in cui è la certificazione diffusa, che è la caratteristica di ogni blockchain, a essere invece il fondamento. Però per loro invece, che forse non capiscono che cosa vuol dire blockchain, la certificazione diffusa è praticamente la grande caverna di Al Capone. Allora, l'obiezione, questa è la caverna degli illeciti mondiali, quando, ripeto, è una certificazione diffusa la caratteristica di ogni blockchain, cosa si risponde a chi dice questo? Ma innanzitutto si risponde con i fatti. Il Ministero del Tesoro inglese ha pubblicato un anno fa un rapporto in cui i principali rischi per il lavaggio del denaro sporco e del finanziamento al terrorismo sono in capo alle banche, agli studi legali, agli studi commercialisti, e elenca, nell'elenco dei rischi mette Bitcoin, le valute digitali e le criptovalute all'ultimo posto. L'Europol più o meno 18 mesi fa, due anni fa, all'epoca del terrore dell'attentato a Parigi, dichiarò che non c'era alcuna evidenza che i terroristi usavano Bitcoin. Magari più avanti, quando Bitcoin sarà più diffuso, più accettato, sicuramente anche i criminali lo useranno, così come usano il dollaro, così come usano l'euro, così come usano internet e la telefonia cellulare. Quanto al tentativo di regolare Bitcoin, è estremamente velleitario. Bitcoin è un fenomeno, come si dice, permissionless, cioè è un'innovazione che nasce senza chiedere permesso. D'altronde, se l'email non l'hanno inventato un consorzio di uffici postali, se internet non è stata creata da un consorzio di telecomunicazioni, immaginare che una nuova rete transazionale, certo, di pagamenti peer-to-peer globale... Ma è questo che manda in crisi gli statalisti. È questo che manda in crisi gli statalisti. Cioè, la Mazzucato, che invece scrive libri dicendo che internet l'ha inventato lo Stato e non è vero, lei capisce che per la Mazzucato questa roba è inaccettabile per definizione, Metrano. Ma la realtà, per fortuna, è testarda. Io, in verità, come cittadino, perché appunto anch'io sono anarco-libertario, non sono anarco-capitalista o antisistema, per i cittadini come noi è preoccupante vedere che il regolatore, che l'investigatore faticano a comprendere che ci sono nuovi paradigmi che in qualche maniera fanno saltare la sicurezza basata sul controllo, basata sul mass monitoring, basata sul mass spying delle conversazioni, delle transazioni finanziarie. È urgente che si torni a forme di indagine, di controllo che siano adeguate ai tempi. Lo spionaggio su scala globale ha, se non i mesi, perlomeno gli anni contati. Allora, 800240024 per intervenire a Metrano, ma si dice che l'incremento giornaliero può superare anche il 20%, no? E non ha nessun grado di prevedibilità il flusso di un Bitcoin, diciamo, in termini scientifici? L'offerta di Bitcoin, essendo un bene scarso, è assolutamente deterministica e limitata. Vengono prodotti 12,5 Bitcoin ogni 10 minuti. È evidente che se la domanda sale molto di più dell'offerta, l'unico fenomeno che possiamo vedere è l'aumentare del prezzo. Alla stessa maniera, quando vengono infrante soglie un po' storiche come $10,000, chi magari ha fatto un guadagno su questo investimento vuole smobilitare e realizzarlo, e quindi poi il prezzo crolla. Questo è naturale per tutti gli eventi, direi, poco compresi, poco assimilati e che hanno una dirompente carica di novità. Siamo sicuri, molti parlano di bolla. Potrebbe anche esserci una bolla Bitcoin, ma sarebbe un po' come la bolla internet: quando anche dovesse scoppiare, sul campo resteranno i valori reali. E la bolla, peraltro, non riguarda, a mio avviso, veramente Bitcoin, ma eventualmente tutto l'ecosistema che ci sta intorno, di alternative currency, come le chiamano, cioè delle copie di Bitcoin, o meglio ancora delle ICO, Initial Coin Offering, che sono appunto tentativi di cavalcare un fenomeno senza avere nessuna delle caratteristiche qualificanti di Bitcoin. Bene, grazie a Ferdinando Ametrano, lo salutiamo, buon lavoro, buongiorno. Le vostre telefonate 800 24 00 24. Lo sai, Oscar, che oggi Elena Cattaneo interviene sul glifosato e dice che se dovesse essere espulso dal mondo dell'agricoltura dovremmo tornare ai muli. Ecco, ma secondo te è possibile su Repubblica, sì, lo segnalo, lo so, perché molti dicono: ma noi non sappiamo cos'è, non sappiamo che cosa se ne scrive. Beh, interviene una ricercatrice che ha una fama mondiale e racconta questa verità. Ecco, racconta ciò che smentisce uno dei tanti esempi di campagna italiana fondata su semplificazione di cose non scientifiche, e che però diventano il dubbio di massa come mai diffuso nella storia italiana contro la scienza, contro l'autorità della salute, che a livello europeo hanno detto: no, il glifosato che si usa in agricoltura non è pericoloso, e così via. E invece noi viviamo di grandi campagne nelle quali si sostiene l'esatto contrario. Quindi nella Castagna per l'ennesima volta spezza, e fa bene, bisogna essere grati, una lancia a favore dei fatti come stanno, ma credo che non riuscirà a convincere nessuno, tanto per cambiare. Beh, ha detto, non essere così pessimista. No, Repubblica, no. Pagina 46, chi vuole può leggere la Cattaneo. Ci fermiamo per la pubblicità, torniamo subito dopo. Mattino. Rieccoci, diciamo una cosa, subito arriva la polemica sul glifosato, dite che ci sono altri tipi di... Sì, va bene, ci sono altri tipi di erbicidi, però voglio dire una cosa del pezzo della Cattaneo che citavamo con Oscar prima, che mi ha molto colpito. Oscar, ti ricordi nei giorni scorsi i nemici del glifosato hanno detto è un regalo alla Monsanto? Sì, sì, vabbè. Ebbene, la cosa incredibile è che spiega la Cattaneo, e non l'ho visto altrove, quindi è un punticino molto semplice: il brevetto Monsanto sull'erbicida è scaduto nel 2001. Gli agricoltori lo usano sui loro campi perché costa poco, 9 euro per ettaro, viene degradato velocemente, scrive la Cattaneo, dai batteri nel terreno, è efficace ma si usa anche per diserbare strade e binari. Molte delle aziende che lo vendono sono italiane, 350 i prodotti autorizzati dal Ministero della Salute che lo contengono. Ma allora che polemica è? Vabbè. Che polemica? Che polemica è? La polemica contro le fake news. Non è solo leggende metropolitane, perché a fare il pezzo contro il rischio nucleare Fukushima dell'esperimento su neutrini nel Gran Sasso è stata una testata giornalistica. Cioè, prendiamoci le nostre responsabilità. L'informazione nostre, però queste non sono nostre, non noi tue, diamo notizie. Dico del così mondo come... generale, è già l'informazione. No, il mondo dell'informazione è un attore fondamentale del rilancio di queste convenzioni. Sì, ma allora sono loro. Invece Mauro ci richiama all'ordine e dice: buongiorno, i prezzi stampalati dei carburanti che erroneamente pubblicizzate sono frutto di transazioni illecite finalizzate all'evasione dell'IVA tramite frode carosello. Conosco benissimo me il fenomeno in quanto lavoro nel mondo petrolifero. Questo fenomeno sta mettendo a repentaglio la sostenibilità dell'attività. Però noi non pubblicizziamo nulla, abbiamo fatto una piccola inchiesta su quanto può costare la benzina e quanta differenza può essere fra benzina e gasolio da un distributore all'altro. È uscito fuori un piccolo ritratto dell'Italia, secondo me è interessante, poi se c'è di più questo però ce lo raccontate. Ecco, aggiungiamo questo e ringraziamo l'ascoltatore, perché è vero che la filiera della distribuzione dei carburanti italiani da anni, Luca devi sapere, è l'unico pezzo per motivi fondati del mondo produttivo italiano che in primis i loro presidenti della rappresentanza hanno chiesto allo Stato di mettere l'obbligo di fatturazione elettronica tra privati, e infatti accogliendo una loro proposta proprio per smascherare, ed è vero, una parte non irrilevante del mercato italiano della distribuzione dei combustibili è viziato da tre grandi correnti internazionali di contraffazione della qualità del prodotto e quindi anche dell'evasione fiscale. Va bene, Oscar, per noi per questo diciamo diteci anche qual è la catena, se ci dite il vostro prezzo. Però aggiungo anche un'altra cosa: se c'è un distributore su strada che ti vende la benzina a 1,27 sì. centesimi, tu non fai niente di male se ti vai a rifornire la macchina. No. Deve esserci qualcuno che mi controlla se quel prezzo è lecito, se lo può vendere. Non è che posso dire è colpa di chi va a distribuire dove costa meno. Bisogna dire che questo è un grande fenomeno. Infatti la fatturazione elettronica parte solo per loro dal giugno del 2018, accogliendo la loro richiesta, ti ripeto, la storia di questo settore è molto questo, bene. Perché ad Ancona, dall'est Europa come dal Nord Africa. Vedi, ora un ascoltatore ci dice anche dove, ad Ancona, Ancoil 1,31. Marco da Torino sul Bitcoin. Buongiorno a tutti, sì. Ma io volevo condividere con voi una riflessione che mi intriga tantissimo sul Bitcoin. Ed è che il regolatore, secondo me, è terrorizzato dal fatto che ad oggi quando vuole stampare carta, cioè vuole stampare moneta, Draghi, sa benissimo con chi confrontarsi per capire come andrà il valore di questa moneta e come regolare quindi lo stampaggio o meno della moneta. Nasce il Bitcoin, che è totalmente non regolato. Il problema di Draghi diventa che non sa con chi confrontarsi per capire come mai non tanto il Bitcoin ha preso 10 volte il valore dell'euro, quanto come mai l'euro ha perso 10 volte il suo valore verso il Bitcoin. Questo secondo me è proprio una roba che è destabilizzante. Ma sì, può essere, però insomma, la questione fondamentale è che le valute e le monete, la moneta e la valuta non sono la stessa cosa, però entrambe quelle che hanno corso legale hanno la stessa duplice natura. Ecco, quelle che hanno corso legale hanno un collaterale certo, come dire, cioè la fede pubblica fatta dalla firma di Draghi sulla banconota ti dà un collaterale certo. In questo caso non è così, il collaterale non è certo, non è neanche un bene di investimento, cioè, perché non produce con una ragionevole certezza calcolabile o scontabile un flusso di reddito certo nel futuro. È un'altra cosa, è unità di valore riconosciuta, ma riconosciuta solo da coloro che accettano le regole e fanno parte della comunità dei certificatori. Questa roba qui manda in effetti in crisi ogni idea di controllo pubblico, cioè della banca centrale che emette, stampa e che c'ha la firma del presidente sopra, che ti dà l'idea che quello è il corso forzoso della moneta. È l'idea cioè di una comunità che si costruisce una regola. E l'idea del mining, il vero valore del Bitcoin, per quanto possa sembrarvi difficile capirlo, non sta solo nella certificazione avvalorata dalla comunità di chi lavora sui server e quindi è ipercertificato. Infatti le catene di blockchain servono ad avere garanzia assoluta dei contratti, perché una volta registrati quello resta e fa fede pubblica, mentre invece se fai un contratto pubblico ti può cambiare da parte del pubblico la sua applicazione, come capita nel detto tributario. Enrico da Monza e Brianza. Sì, buongiorno. Sì. La mia testimonianza di Bitcoin è purtroppo negativa, nel senso che poco meno di un anno fa siamo stati attaccati da un hacker come azienda che ci ha bloccato tutte le macchine, tutti i computer, ed lo abbiamo pagato in Bitcoin. Per cioè avete pagato il riscatto? Esatto, il riscatto. Ma roba da pazzo. È un pizzo telematico. In questa maniera. È stato un pizzo telematico praticamente. Esatto, non so, io adesso sono ignorante, non so quanto sia tracciabile un conto Bitcoin personale di qualunque ma tipo. Ma avete naturalmente segnalato, mentre eravate oggetto di questa richiesta, a tutte le autorità? Sì, assolutamente, è stato denunciato e non so se è facilmente rintracciabile oppure no, questo lo ignoro. Però la forma di pagamento scelta è stato il Bitcoin. Quindi la bit tracciabilità. Già, grazie, bella testimonianza Enrico, sì. Inquietante. Gianluigi da Pesaro Urbino. Eccomi qua, buongiorno a voi. Io volevo intervenire riguardo alla questione del glifosato per fare un ragionamento più ampio. Sì. Sono ormai mesi che non si parla d'altro. Allora, io sono il direttore di un consorzio che si occupa di una pianta assolutamente innovativa. Però noi abbiamo già più di 800 agricoltori in Italia che rappresentano lo 0,4% delle aziende agricole italiane, che hanno scelto di staccarsi dagli antiparassitari, dai pesticidi e da tutte queste porcherie che ci avvelenano la vita, generano tumori, eccetera, e hanno fatto la scelta di una piantagione più sana, che è quella della coltivazione del bambù, che però non viene in nessun modo aiutata o incoraggiata dai nostri politici, dai nostri governanti, quando noi ormai sono quasi 3 anni che cerchiamo di bussare a tutte le porte affinché ci notino, perché oltretutto questa piantagione che genera dei germogli alimentari assolutamente salutari, tant'è che la facoltà di farmacia dell'Università di Bari li ha definiti tra i 5 alimenti più salutari al mondo, quindi germogli di bambù è veramente qualcosa di straordinario. Abbiamo l'opportunità di una coltivazione che non utilizza alcun pesticida, perché la pianta è autoimmune, sviluppa praticamente delle sostanze che la rendono autosufficiente, diciamo così, non ha bisogno di nulla. E mi chiedo come mai i nostri politici dormano veramente tanto. Grazie. Potremmo risolvere, cioè, lei dice che siccome non le danno i sussidi a lei dormono e avvelenano la gente, capisce? Però io siccome non c'è tempo, no, lei ha detto testualmente questo, la faccio riflettere, non perché io voglia litigare. Lei ha detto che il glifosato, i pesticidi che avvelenano, mentre voi avete la chiave ovviamente e i politici non vi danno retta a dare i sussidi. Su, si commenta da solo. Mi spiace, perché adesso lei dirà che io sono rozzo in poche parole, però i tempi brevi sono questi, però sono le parole che lei ha usato che mi hanno fatto molto riflettere, capisce? capisce? Ecco, legga la Cattaneo. Ma Gianluigi è libero di coltivare quello che vuole. Pensa, sì, il bambù, però, se è prodotto del millennio, può coltivarlo. Non è però, che come i politici non lo sussidiano. Il problema è che poi non è che possiamo mangiare solo germogli di bambù. Cioè, no, abbiamo bisogno anche di altre cose, appunto. Quindi ci poniamo il problema delle altre cose, come devono essere coltivate. Allora, Maurizio Belpietro al telefono con noi, direttore della Verità, buongiorno. Buongiorno a tutti. Che oggi, no, domani presenta il suo nuovo libro, che ha un titolo shock, farà sicuramente discute, Islamofobia. No, follia. Islamofollia, ecco. E qual è la tesi del libro? La tesi è molto semplice, che continuiamo a parlare di islamofobia, e fra l'altro addirittura abbiamo introdotto un reato che punisce chiunque si permetta di criticare qualche cosa di questa religione, e in realtà siamo all'islamofollia, non all'islamofobia. Non è che la gente ha paura dell'Islam, ma la gente ha paura dei terroristi islamici. E non è che parlando di questo si offende qualcuno. Si dice semplicemente la realtà, e forse varrebbe la pena di parlarne un po' di più per capire le ragioni di questo terrorismo islamico, e invece è impedito di fatto discutere di questo argomento, che è un po' come se negli anni 70 e anche al principio degli anni 80 non si fosse potuto discutere del terrorismo comunista o del terrorismo fascista, perché rischiavamo magari di offendere qualcuno. Se c'è un terrorismo, bisogna andare alle radici di questo terrorismo e capirlo senza che nessuno si senta offeso, francamente, senza che nessuno, a nessuno sia impedito di parlare e di intervenire. Ah, ecco perché islamofollia. Sabato mattina 10:30 presso l'Unione del Commercio di Milano, la prima presentazione. Oscar, che cosa pensi di questa grande polemica che c'è, che abbiamo sempre di più, su cosa è lecito, cosa non è lecito, dove bisogna fermarsi nella critica, dove bisogna tracciare i confini del politicamente corretto? No, io chiedo al direttore Belpietro, dal suo punto di vista, i motivi di questo grande freno che sta a metà tra il politico e il culturale, per l'egemonia culturale nel tempo, che hanno avuto chi la pensa diversamente su questo tema, deriva di più dal fatto che la politica estera italiana in passato per decenni è stata compromessa, ha scelto il compromesso, ha scelto cioè di comprarsi la sicurezza non dicendo pane pane vino il vino, chiudendo gli occhi sui traffici di pezzi del terrorismo quando era laico, non era islamista, ma sempre di lì veniva, però, e facendo dell'Italia una specie di Porto Franco per quello scambi. Che è stato definito il Lodo Moro, Moro nel memoriale, esatto. Un accordo era quello per cui c'erano ufficiali dei servizi italiani che erano garanti nelle capitali arabe di questo tipo di flussi, colonnello Giovannone e così via, per chi conosce la storia italiana. Ma conta più quello oppure l'elemento che viene dopo in questi vent'anni, che è quello dovuto alle polemiche su dobbiamo integrarli, il flusso di immigrati, e quindi la polemica sui rischi che possono essere collegati a questi flussi ci consente peggio di fare le politiche dell'integrazione. Quali dei due elementi secondo Belpietro conta di più? Ma secondo me contano entrambi, e vi spiego perché. Innanzitutto è assolutamente vero, c'era il famoso lodo Moro, che era anche un lodo Andreotti, cioè teniamoceli buoni così da noi non vengono. Poi, come si è visto, non era esattamente così. Ma fra l'altro, a proposito del lodo Moro, ricordo che l'altro ieri sera una ex terrorista palestinese, Leila Khaled. Leila Khaled, che proprio a Fiumicino dirottò un aereo portandolo in Siria e ovviamente venendo poi subito liberata, in maniera che potesse provare subito dopo a cercare di dirottarne un altro. Lì non fu ammazzato nessuno, grazie al cielo, ma l'aereo fu fatto esplodere. Rischiava di essere accolta con tutti gli onori di nuovo a Fiumicino, per poter poi parlare tranquillamente in alcune città italiane, a Cagliari, a Napoli, a Roma, raccontando della storia del palestinese, di tutte le azioni che sono state compiute in questi anni. Lei la Al-Qaeda, fra l'altro non ha mai preso le distanze dagli atti di terrorismo, ma noi la accoglievamo volentieri lo stesso, grazie al cielo, e poi invece è stata fermata e rispedita a casa propria in Giordania. Quindi ancora un po' questo retaggio esiste, ma esiste anche l'altro argomento, e cioè è nato un terrorismo che non è più soltanto, diciamo così, arabo, palestinese, come era stato nel passato, è nato un terrorismo che affonda le radici proprio in alcuni convincimenti, sicuramente minoritari, che riguardano l'Islam, ma sicuramente molto pericolosi. E di fronte a tutto ciò, invece di chiedere ai nostri amici islamici che sono venuti in Italia, che vogliono vivere in pace, tranquilli, rispettare le leggi italiane, di affrontare l'argomento, di aiutarci a combatterlo, di aiutarci a risolverlo, che cosa facciamo? Evitiamo di parlare della questione, per cui il risultato è che persino quando ci sono attentati di un certo tipo, ci sono stragi, non prendiamo in considerazione che quelle stragi hanno un'origine, e cioè derivano da chi pensa di instaurare il califfato piuttosto che comunque di far la guerra all'Occidente. Evitiamo di chiedere loro di intervenire, di fare qualche cosa. Il risultato è che addirittura abbiamo dei comunicati di solidarietà di alcune associazioni islamiche che parlano di solidarietà alle vittime, ma neppure si azzardano a menzionare le origini di quel terrorismo, non parlano di Islam, non parlano di niente, non denunciano i predicatori di odio, gli imam che fanno proselitismo per questi fondamentalisti. E allora di che stiamo parlando se non lo chiediamo a loro? Guardate che il terrorismo rosso fu sconfitto nel momento in cui il Partito Comunista capì che, siccome avevano ammazzato a Genova Guido Rossa, e cominciò a denunciare quelli che prima da allora erano considerati compagni che sbagliano. Guido Rossa stesso fu condannato a morte perché aveva denunciato un compagno di reparto che distribuiva un volantino, Berardi, un volantino a favore delle Brigate Rosse. Sì, ma ricordiamoci anche che Guido Rossa fu lasciato solo proprio dai suoi compagni, che non denunciarono, perché il Consiglio di Fabbrica non denunciò, e Guido Rossa fu l'unico che ebbe il coraggio di mettere la firma nella denuncia presentata pagato, ai carabinieri, pagato e pagò con la vita. Ma da quel momento in poi il Partito Comunista si rese conto che, come spiegò Rossana Rossanda, poi c'era un album di famiglia nel terrorismo, e quindi bisognava denunciare quelli che commettevano atti del genere, facevano proselitismo all'interno delle fabbriche in nome di una rivoluzione comunista. E questo è stato. Allora dobbiamo chiedere a tutti quanti, quelli che sanno qualche cosa, di raccontare, di parlare, di denunciare. Chissà altrimenti... parli, certo. Allora, per chi vuole saperne di più, sabato a Milano, Unione Commercio di Milano, Corso Venezia 47, e credo che si inizierà un giro per l'Italia. Grazie a Maurizio Belpietro. Grazie a voi. Oscar. Luglio, migrati comunque sbarcati, meno 67%. Minniti, che ruolo avrà nel futuro post-voto, quando non ci sarà un governo coeso? Minniti al Quirinale. Si guarda questo nome, se tace e si spera. Ma non abbiamo finito, eh? Sembrava... Ma io lo so, però no. Mi hai chiesto. Hai usato il sussurrato bello delle parole conclusive, adesso dovrai produrre un altro, preparatelo. Non ti preoccupare. Allora, molto divisi, oggi Belpietro, non vi seguirò più, ma noi sentiamo tutti, abbiamo Fratoianni, abbiamo Salvini, abbiamo Belpietro, abbiamo i ministri del PD, abbiamo tutti, sentiamo tutti, è il nostro peggiore difetto. Se vi dispiace sentire qualcuno, allora non ci sentite. Però vedi, è diventato un difetto sentire tutti. Nella frase che hai usato, in termini paradossali, c'è una chiave dei tempi terribili che viviamo. Perché si vive con una sola bandiera in mano, e allora si viene riconosciuti da chi ha quella stessa bandiera, o invece a dire no, noi dobbiamo averci tutte le bandiere che qui esponiamo a tempo. Ti becchi la reazione di tutti, dici, ma allora non ne avete una, e allora non mi fido di voi. Io lo trovo terribile. Ma si può avere una bandiera, però nulla impedisce di ascoltare quelli che hanno altre bandiere. Anzi, io e Oscar, che siamo cresciuti nel Pleistocene della Prima Repubblica, avevamo una pratica, un'idea che si ascoltavano tutti. Le piazze dei comizianti erano tutte piene, ed è una buona abitudine rispetto ai tempi separati di ognuno col suo piccolo idolo, senza farsi contestare. Se tocchi il piccolo idolo, orrore. Dunque, io volevo... Che cosa c'era? C'era una cosa importante su cui volevo chiederti una... Ah, Viagra libero per tutti. L'hai letto questo pezzo? Sì, ma ammetto, non no, proprio Melania in cima. Rizzoli, ma non è un problema. No, no, è un tema importante. Racconta che in Gran Bretagna è già così... Viagra libero per tutti senza ricetta. Non so se è una frontiera di liberazione, però è una cosa interessante. Sì, per carità. No, ti ho spiazzato. No, a me è spiazzato. Il fatto è, capisci, per i 36 miliardi di sanità privata che gli italiani spendono, a prescindere dal reddito che hanno, e col welfare che si gira dall'altra parte, per me sono un problema più rilevante. Prima di arrivare al Viagra gratis, cioè, no, non gratis, cioè Viagra senza prescrizione, libero ho capito, ti sto dicendo che però per prescrizioni farmaci, per me prima dei coadiuvanti servono un problema di cui occuparsi, e quello delle patologie serie, te lo dico proprio seriamente. Allora, Juve-Napoli, godetevi questo spettacolo. Ecco il pensiero Giannino. Ora il sindaco di Rimini, il PD Gnassi, che firma l'ordinanza con l'arresto per chi va con le prostitute. Siete d'accordo? Ma a domani, no, siamo fermi per il weekend, ci sentiamo lunedì, ciao.